Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Produzione nelle costruzioni: ad aprile l'Istat ha registrato un crollo del 67%, oggi agli Stati Generali agricoltura e turismo. In arrivo il bonus vacanze da 500 euro dal 1 luglio, possibile fare richiesta sulla app io.italia.it. Caso Regeni, il tempo dell'attesa è finito, Di Maio scrive al ministro degli esteri egiziano e dice fare luce adesso. Napoli in festa per la vittoria in Coppa Italia, Ranieri Guerra dell'OMS, assembramenti senza mascherina, tifosi sciagurati. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura andiamo subito agli Stati Generali, dove entra nel vivo la quinta giornata, protagonisti oggi agricoltura e turismo, nel giorno nel quale si apprende anche come sarà possibile nei prossimi giorni scaricare per i cittadini italiani la richiesta per il bonus vacanze. Ma come detto ci colleghiamo con Giorgio Stamatopoulos, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio, come ricordavi questi sono i due mondi che oggi vanno a confrontarsi, convocati dal governo. In entrambi i casi portano al tavolo un bilancio dolente, causa emergenza Covid per Coldiretti. La crisi però è anche un'opportunità per riscrivere le regole del settore, convinta che con una adeguata formazione e semplificazione, e qui appunto sono le proposte che portano in dote quest'oggi, l'agricoltura nazionale potrebbe offrire agli italiani in difficoltà almeno 200.000 posti di lavoro, quelli oggi affidati in sostanza a lavoratori stranieri stagionali che alla fine della stagione poi tornano nei propri paesi d'origine. Nel complesso il settore ha registrato, e questa è la nota dolente per il mondo dell'agroalimentare, perdite per oltre 12 miliardi, effetto tra l'altro del taglio alle esportazioni, delle chiusure di bar e ristoranti e di speculazioni su prezzi al dettaglio. Una diminuzione dell'attività che ha colpito il 57% delle 730.000 aziende agricole nazionali. Passiamo all'altro settore, con le prenotazioni che ancora non decollano nonostante la riapertura dei collegamenti. Anche sul fronte del turismo la stagione estiva appare compromessa. Confesercenti e le altre associazioni di categoria parlano di 13 milioni di viaggiatori persi e di 56 milioni di pernottamenti in meno rispetto all'estate scorsa. Una brusca frenata che vale oltre 3 miliardi di euro di fatturato in un settore che rappresenta il 13% del PIL italiano. E per il momento qui da Roma, Alessio, è tutto. Grazie Giorgio Stamatopoulos. E da un altro settore come quello delle costruzioni arrivano oggi i dati dell'Istat, che ad aprile in pieno lockdown ha registrato un drastico calo della produzione nel settore delle costruzioni, una flessione mai avvenuta prima, si tratta del 67,8%. E oltre ai progetti di rilancio dell'economia italiana che entreranno nel recovery plan per l'uso dei fondi europei, di cui si sta discutendo anche agli Stati Generali per l'economia, come sentivamo, il governo però è a lavoro anche per contenere le perdite occupazionali in vista soprattutto di settembre, intervenendo su cassa integrazione, contratti a tempo determinato e prestiti alle imprese. Sentiamo. Si guarda alla fase 3 con proposte e bilanci soprattutto sul fronte delle imprese e del lavoro. Uno dei nodi è la cassa integrazione. Guardando ai numeri sul sito dell'INPS con dati aggiornati al 14 giugno, si tratta di 5 milioni di prestazioni mensili pagate finora. Nel dettaglio ci sono ancora 300.000 lavoratori in attesa dell'assegno relative alle domande arrivate nelle prime due settimane di giugno. 29.000 lavoratori sono riferiti alle domande pervenute entro maggio. In sospeso, forse ancora da esaminare, ci sono 81.000 domande con modulo già pervenuto all'INPS. Secondo la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, la CIG è stata pagata al 96% degli interessati e c'è l'intenzione di prolungarla con le risorse europee del programma SURE. E intanto si guarda alle proposte per far ripartire il lavoro nelle imprese. Afferma il ministro dell'economia Gualtieri, non possiamo prorogare il blocco dei licenziamenti per tutti e prolungare la cassa integrazione per sempre. Per sostenere l'occupazione il governo valuta, dice, se introdurre incentivi sul versante contributivo, magari collegati a vincoli di non licenziamento, e rimuovere i disincentivi ai contratti a termine fino alla fine dell'anno previsti dal decreto dignità. Gualtieri poi aggiunge che è allo studio anche una moratoria sui prestiti del fondo di garanzia delle PMI in scadenza a settembre, ormai saliti oltre quota 640.000 domande. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il gruppo svedese IKEA riparte in tutto il mondo, decide però di farlo senza il supporto degli ammortizzatori sociali. Abbiamo deciso di sospendere la procedura di accesso ai fondi inizialmente richiesti, spiega in una nota la multinazionale dell'arredamento, perché anche se nessuno è in grado di prevedere con precisione l'evoluzione di questa situazione, dice IKEA, in questo momento possiamo guardare al futuro con una prospettiva di speranza. E adesso andiamo in Europa in vista del Consiglio europeo di domani, dove ci sarà una nuova interlocuzione sul Recovery Fund. Parla oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Sentiamo. A poche ore da un vertice europeo interlocutorio, ma comunque importante per valutare le posizioni dei 27 sul prossimo bilancio comunitario, la cancelliera Angela Merkel ha fatto pressione oggi sui suoi partner perché un'intesa venga trovata prima della pausa estiva. È ormai chiaro che il vertice di domani in teleconferenza sarà seguito da una riunione fisica in luglio. Sarà sufficiente per raggiungere il consenso tra i 27? I temi controversi non mancano. Riguardano l'ammontare del fondo per la ripresa, la proporzione tra prestiti e sussidi, le priorità nell'uso del denaro. Le posizioni nazionali mettono a confronto il nord e il sud, l'est e l'ovest. La Germania assumerà la presidenza dell'Unione dal 1 luglio. È pronta ad avere il ruolo di mediatore, ma non vuole che il negoziato inquini, per così dire, il prossimo semestre. Ragione per cui la signora Merkel insiste per un accordo entro la pausa estiva. Tanto più che le ultime previsioni della Banca Centrale Europea, pubblicate oggi, confermano che la ripresa è incertissima. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il caso Regeni adesso. Ho mandato una lettera al ministro degli esteri egiziano ribadendo che serve un efficace segnale di svolta sul caso. Bisogna far luce definitivamente sulla morte di Giulio perché il tempo dell'attesa è finito. Così oggi il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Invece il procuratore di Torino Francesco Salluzzo ha incontrato oggi i familiari delle vittime della ThyssenKrupp nel 2007 dopo la decisione arrivata da parte della giustizia tedesca di concedere la semilibertà ai due manager condannati. Se siamo arrivati a questo risultato è comunque perché non abbiamo mai abbassato la guardia, ma non potevamo incidere perché si tratta di uno Stato estero. Così il procuratore generale di Torino, Francesco Salluzzo, che questa mattina ha incontrato i familiari delle 7 vittime del rogo alla ThyssenKrupp il 6 dicembre del 2007. Il Tribunale di Essen, infatti, ha concesso la semilibertà ai due manager condannati in via definitiva a 5 anni di carcere per omicidio ed incendio colposo. Potranno lasciare ogni giorno il carcere per andare al lavoro e tornarvi la sera. Ci incateneremo a Roma, andremo ad Essen, promettono i familiari. La prossima settimana saranno ricevuti nella capitale da una delegazione del governo. Mentre si dice basito Antonio Boccuzzi, l'operaio sopravvissuto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la cronaca ci spostiamo in Calabria per una nuova operazione antidroga. 11 arresti e 7 divieti di dimora è il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri tra Vibo Valentia e Firenze, coordinata dalla DDA di Catanzaro. Colpita una rete di narcotrafficanti collegata all'andrangheta calabrese. In totale ci sono una 60 di indagati che si aggiungono a quelli coinvolti nell'operazione Rinascita Scott del dicembre scorso, che portò all'arresto di più di 330 persone, tra cui politici, avvocati e professionisti ritenuti vicini alla criminalità organizzata. I nuovi arresti scaturiscono proprio da approfondimenti investigativi di quell'operazione, che portano adesso a quasi 500 gli indagati, ricostruito un vasto traffico di cocaina, marijuana e hashish che lega tutte le cosche del Vibonese, in grado di spacciare anche in Piemonte, Toscana e Sicilia. Un vero cartello che si riforniva in Brasile e in Albania. Dal Brasile la droga arrivava nascosta in carichi di marmo o di minerali, dall'Albania veniva invece fatta sbarcare a Bari e poi smistata. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia. Si riunisce oggi la conferenza delle regioni e poi anche la sede Stato-Regioni. Allo studio il nodo riapertura delle scuole con l'intreccio con le elezioni regionali fissate al 20 aprile che rischiano di far slittare la riapertura. Le regioni, a quanto si apprende, chiedono di anticipare il voto per le regionali per consentire l'avvio regolare anche nelle 6 regioni in cui appunto si terranno le elezioni amministrative. Regioni che propongono anche misure meno restrittive per il ritorno in classe, come l'utilizzo della mascherina soltanto negli spazi comuni durante l'ingresso e l'uscita, ma non durante le lezioni scolastiche. E ora ci occupiamo del rapporto dell'ONU sui rifugiati. Pensate che l'1% della popolazione mondiale, secondo l'agenzia dell'ONU, è in fuga da conflitti, persecuzioni e violenze, pari quasi a 80 milioni di persone. È un dato senza precedenti quello che emerge dal rapporto annuale Global Trends pubblicato dall'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, in vista della giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno prossimo. Il documento rivela che alla fine del 2019 79 milioni e mezzo di persone, il 40% dei quali minori, sono state costrette a lasciare il loro paese in fuga da conflitti, persecuzioni o violenze. Il numero è quasi raddoppiato dal 2010, quando erano 41 milioni. Ora è in fuga una persona su 97 nel mondo, pari a più dell'1% della popolazione globale. Il rapporto rivela inoltre come per i rifugiati sia diventato sempre più difficile ritornare a casa. Infatti, se negli anni 90 ci riusciva una media di 1,5 milioni di persone ogni 12 mesi, negli ultimi 10 anni la media è crollata a circa 385.000. Ad accogliere l'85% dei rifugiati sono soprattutto i paesi in via di sviluppo e 2/3 di loro provengono in particolare da Siria, Venezuela, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polemiche per il dopo partita Napoli-Juve, finale di Coppa Italia vinta dal Napoli ai rigori. I festeggiamenti per la vittoria dei partenopei hanno portato nelle strade della città moltissime persone, non sempre distanziate e non sempre con la mascherina. Sciagurati li ha definiti Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha aggiunto: in questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco, ha detto Ranieri Guerra, hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove. 13:12, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Torneremo in Cina, dove di fronte ad alcune decine di casi di Covid ci sono drastiche misure di sicurezza. Poi ancora il caso Regeni e scopriremo anche quali sono invece le tendenze per le vacanze degli italiani 2020, vacanze di prossimità, detto in altri termini vacanze vicino casa. 349-238-6666, a tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Napoli in festa per la vittoria in Coppa Italia, polemico Ranieri Guerra dell'OMS, assembramenti senza mascherina, tifosi sciagurati. Pechino registra altri 21 casi di coronavirus, misure restrittive in aumento, ne parliamo tra poco. Produzione nelle costruzioni, ad aprile l'Istat ha registrato un calo senza precedenti del 67%, oggi agli Stati Generali Agricoltura e Turismo. In arrivo il bonus vacanze da 500 euro dal 1 luglio, possibile fare richiesta sulla app io.italia.it. Adesso cerchiamo di capire quello che sta succedendo in Cina e lo facciamo con Gabriele Battaglia, corrispondente da Pechino per la Radio Televisione Svizzera. Ciao Gabriele, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, noi ci siamo lasciati qualche giorno fa parlando di Cina, in cui tu ci stavi raccontando come soprattutto il paese sta guardando in avanti per far ripartire l'economia. Allora ci eravamo sentiti per quella notizia di una presunta, diciamo, retrodatazione dell'Università di Harvard che portava indietro le antenne dell'orologio, le lancette dell'orologio all'inizio dell'epidemia di coronavirus in Cina. E tu appunto ci stavi raccontando come il paese sta cercando di lasciarsi alle spalle tutto quanto, però le notizie degli ultimi due giorni invece da Pechino sono molto diverse, perché ufficialmente ci sono pochi casi, ma interi quartieri della città isolati, persone che non si possono spostare se non con autocertificazione, soprattutto voli cancellati, insomma preoccupazione per questi nuovi focolai. Ci racconti l'evoluzione di questi ultimi giorni? Dunque, da giovedì scorso ci sono già stati 158 casi localizzati a Pechino, concentrati nel mercato di Xinfadi, che è un grande mercato all'ingrosso di generi alimentari. Per intenderci, rifornisce l'80% dei mercati dei supermercati di Pechino e anche fuori Pechino, per quanto riguarda frutta, verdura, carne, pesce e così via. In questo mercato sono stati rilevati questi casi e finora tutti questi casi, questi 158, sono legati in qualche modo al mercato, quindi questo fa sperare le autorità di essere riuscite a circoscrivere. Quindi hanno stabilito diversi livelli di sicurezza, di allarme per cerchi concentrici, cioè chiaramente è in totale lockdown, il mercato è stato chiuso, ma le zone immediatamente limitrofe, cioè le comunità residenziali d'intorno, sono in lockdown. Sono, diciamo, in questo momento l'area più considerata più a rischio della Cina intera, mentre man mano che ci si allontana, diciamo, la vita è più normale. Diciamo che stanno facendo test di massa a tappeto più o meno su tutta la città, è obbligatorio ed è gratuito per tutte le zone che sono state designate come più pericolose, e infatti si vedono le file di persone davanti a questi centri dove fanno il test, hanno allestito, non so, delle palestre piuttosto che dei campi di calcio delle scuole, cose sì, di questo genere, mentre pian piano che ci si allontana il test diventa, per esempio, se io volessi farlo in questo momento potrei prenotarlo e farlo a pagamento, ci sono una lista di ospedali e così via. Quindi questa è più o meno la situazione. Poi, come accennavi, c'è stata una sospensione di molti voli da sì, e per Pechino, e pare che le autorità cinesi ieri hanno detto 1225 ieri. Tutte misure precauzionali in attesa di capire se, e questo si capirà nei prossimi due giorni, se sono riusciti a contenere questo focolaio, perché oppure se... Certo, Gabriele, è chiaro che insomma, per una città grande come Pechino, oltre 20 milioni di abitanti, la preoccupazione per un possibile focolaio che nel giro di pochi giorni possa estendersi è elevata, e lo sarebbe in qualunque città. Però nonostante tutto, noi qua dall'altra parte, diciamo, del mondo, ci chiediamo come sia possibile che per poche decine di casi si stia, anche se per aree diciamo limitrofe rispetto al mercato focolaio di questi contagi, stia bloccando, cancellati i voli, 100.000 operatori sanitari per fare test a tappeto su tutta la città. Come insomma, nel paese che è stato poi accusato più volte, lo sappiamo, di avere minimizzato, nascosto, trascurato, insomma, i dati all'inizio, ma anche poi durante la fase successiva dell'epidemia, come va interpretata questa specie di massima cautela di fronte a così pochi casi? Innanzitutto dobbiamo dare atto ai cinesi che in genere imparano dai propri errori, quindi se qualcosa non ha funzionato la volta scorsa, adesso cercano di porre rimedio, così come l'altra volta, la volta scorsa hanno già fatto meglio rispetto alla SARS del 2003, quindi pian piano sono evolutivi, diciamo così. E poi non dobbiamo sottovalutare l'elemento Pechino. Pechino non è solo una città da 23 milioni di abitanti, è la capitale, ha un alto valore simbolico, un alto valore politico, e quindi hanno due problemi in questo momento. Da un lato, qui non deve succedere assolutamente nulla, Pechino deve essere rappresentazione della sicurezza, di del fatto che le cose funzionano, che la casa dell'imperatore non può essere un posto dove scoppiano epidemie e la gente muore per strada, per intenderci, la banalizzo. Dall'altro lato però c'è l'altro problema, cioè quindi devono mettere in atto misure molto potenti, molto draconiane. Però dall'altro lato c'è l'altro problema, non possono fermare Pechino, cioè non è Wuhan che possono isolarla e fermarla per 2 mesi. Pechino deve continuare a lavorare, deve continuare la sua attività economica, politica e diplomatica, e quindi si trovano presi per in questa contraddizione, e questo fa sì che abbiano applicato queste misure mirate da zona a zona, mm-hmm. molto flessibili, che possono cambiare di giorno in giorno. Va bene, staremo dunque naturalmente poi a vedere quale sarà l'evoluzione di questi iniziali focolai al mercato di Pechino. Grazie intanto Gabriele Battaglia di nuovo per essere stato con noi, buon lavoro, ciao. Grazie a tutti voi, buongiorno. Va bene, adesso alle 13:22, come annunciato, torniamo a occuparci del caso Regeni. Oggi il ministro degli esteri Di Maio ha detto il tempo dell'attesa per l'Italia è finito. Il 1 luglio si confronteranno nuovamente la procura di Roma e quella del Cairo dopo oltre un anno e mezzo di silenzio. Daniele Biacchessi. La verità sulla morte di Giulio Regeni resta ancora lontana, nonostante le numerose inchieste giornalistiche, il lavoro della commissione d'inchiesta parlamentare, i tanti comitati di solidarietà alla famiglia del ricercatore nati in tutto il paese. Questa sera il premier Giuseppe Conte sarà sentito dai commissari di San Macuto, dove riferirà sull'andamento della lunga ed estenuante trattativa con l'Egitto. E il 1 luglio si terrà la riunione tra le procure di Roma e del Cairo. Non potrà essere decisiva perché sul caso Regeni non si è ancora infranto il muro di gomma eretto dalle autorità egiziane, che non collaborano, anzi ostacolano la richiesta legittima di processare i probabili esecutori dell'omicidio in Italia. Il problema è dunque politico ed economico, tanto che il segretario del PD Nicola Zingaretti riapre la partita della vendita delle 2 fregate Fremm all'Egitto. Senza la certezza di un processo per i 5 agenti indagati per il sequestro e la morte di Giulio Regeni attraverso la loro elezione di domicilio, non si possono immaginare passi in avanti nei rapporti bilaterali con l'Egitto. Nella sostanza, per dirla con le parole dell'ex ministro dell'interno Marco Minniti, bisognerebbe subordinare ogni nostra mossa politico-diplomatica a un passo del Cairo nella direzione della cooperazione giudiziaria. Credo non sarà un'impresa facile, ma la battaglia di verità e giustizia comunque non si ferma. Adesso cambiamo decisamente argomento, apriamo una finestra su queste vacanze 2020, perché insomma, nonostante la fine del lockdown, nonostante la possibilità di spostarsi tra regioni ma anche tra paesi europei, insomma, molti stanno programmando vacanze vicino casa. Ci sono sicuramente timori per quello che si potrà trovare nelle spiagge sovraffollate, forse anche il timore che in caso di una nuova ondata, con un nuovo lockdown, di fronte a una prenotazione ci si possa poi rimanere male. E allora, per quanto riguarda la zona del nord, la Lombardia in particolare, si guarda alla montagna e alle zone tradizionali della Valtellina e della Val Camonica. È con noi Roberto Pinna, direttore del Consorzio Turistico di Sondrio e Valmalenco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti voi. Dunque, e voi che tipo di indicazioni? Perché è un po' che si parla di questa tendenza che insomma è in atto, di cercare di guardarsi intorno per una volta nel nostro paese, che fortunatamente offre molto, ma insomma, voi che tipo di indicazioni state ricevendo, che tipo di tendenza state registrando, quali sono le richieste che vi stanno arrivando? Allora, intanto tutti dicono che quest'anno è l'anno della montagna, in realtà è sempre l'anno della montagna per gli amanti della lentezza, dell'isolamento, e quindi voglio dire, questo lockdown non ha altro che ha aumentato questo effetto di tranquillità che c'è in montagna. Beh, le indicazioni che diamo, intanto siamo passati da un periodo di grandi richieste di appartamenti in affitto, sì, con uno spostamento sicuramente da delle richieste settimanali, che è tipico delle affittanze turistiche estive e anche invernali, a richieste anche mensili, quindi appartamenti mensili. Quindi segno che effettivamente si guarda proprio alla montagna come un luogo dove trascorrere, se non tutto, insomma, una grossa parte della vacanza estiva. Ma credo proprio di sì, anche se la montagna è sempre stata un po' un rifugio di famiglie, di una tipologia di clientela, insomma. Il mare quest'anno ha qualche difficoltà in più, cioè la bellezza resta invariata, però c'ha qualche difficoltà in più nella logica di assembramenti. E credo però, che sì, scusi, Pina, ci diceva case, affitto lungo di case, sì, qualche settimana, addirittura anche un mese, ma anche alberghi, e le prenotazioni arrivano soprattutto da italiani lombardi, come dicevamo prima, o anche dagli stranieri, per esempio, invece. Ma allora c'è stato un inizio, quando c'era tutto chiuso, che le richieste arrivavano soprattutto e prevalentemente dalla Lombardia, quindi questo è inutile negarlo. Adesso stanno incominciando ad arrivare anche extra richieste da extra regioni e anche da stranieri, un po' perché il nostro territorio è comunque conosciuto su certi mercati, quindi stanno ritornando le richieste dal Belgio, qualche timido svizzero e timido olandese, ma comunque stanno arrivando, ecco. Va bene, grazie e buone vacanze non solo a lei, ma insomma soprattutto a chi ci sta ascoltando, diciamo. Per voi buon lavoro. Buon lavoro a tutti noi, che dobbiamo mantenere sempre vivo almeno l'interesse del nostro lavoro. Grazie, bene, grazie Roberto Pina del Consorzio Turistico Sondrio e Valmarenco. E vi ricordo in chiusura un'ultima cosa che riguarda proprio le vacanze, perché a breve è previsto dal decreto rilancio la possibilità di utilizzare il bonus vacanze. Le istruzioni si troveranno, insomma, sarà possibile farlo dal 1 luglio scaricando la app io.italia.it, l'app dei servizi pubblici. Il bonus sono 500 euro a famiglia con un reddito ISEE non superiore ai 40.000 euro, e poi naturalmente servirà per pagare i servizi offerti dalle imprese turistico-recettive, agriturismi, bed and breakfast italiani. 13:28, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, la borsa, 349-238-6666. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Napoli in festa per la vittoria in Coppa Italia. Ranieri Guerra dell'OMS attacca assembramenti senza mascherina, tifosi sciagurati. Nuovi casi di coronavirus in Cina. Le autorità di Pechino fanno sapere il focolaio di Covid emerso al mercato è stato portato sotto controllo. Caso Regeni, il tempo dell'attesa è finita. Di Maio scrive al ministro degli esteri egiziano: fare luce adesso. In arrivo il bonus vacanze da 500 euro dal 1 luglio, possibile fare richiesta sulla app Io dei servizi pubblici. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E i vostri messaggi al 349-238-6666. Vediamo molto velocemente. Giacomo da Ferrara scrive: noi stiamo cercando casa in Val di Funes, Alto Adige, non si trova già più nulla. Della serie Agenzia delle Vacanze Radio 24. Sì, in effetti confermiamo che quanto riguarda la Valtellina, l'intervista di prima con il direttore del consorzio Valmarenco, non ci sono quasi più case in affitto in quella zona della Valtellina, quindi la conferma è che la stessa cosa succede anche in Alto Adige. Beh, insomma, ci sono ancora agriturismi, alberghi, residence, dove credo lo spazio vitale non mancherà in montagna. Io non sono un grande frequentatore, per cui parlo così un po' a casaccio. In ogni caso, è il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. L'Italia che c'è, quella che vorremmo, è quella che si progetta agli Stati Generali. Che strano senso di divaricazione. Quella che c'è è l'Italia della burocrazia, che ritarda il pagamento della cassa integrazione ad almeno 500.000 di disperati, che processa solo il 65% delle quasi 850.000 domande per i prestiti garantiti dallo Stato chiesti dalle PMI, che vara 165 norme per gestire la crisi Covid-19 e sembra un gran fervore operativo, ma ne rende usabili solo 31. Eccola l'Italia che c'è, quella che tutti vorremmo invece è un paese efficiente, dove l'amministrazione fa ciò che la politica promette con solerzia e velocità, dove lo Stato crea le premesse per le pari opportunità dei suoi cittadini e premia i migliori, dove lo Stato indica le regole, la burocrazia le crea e il mercato le applica. L'Italia che si progetta invece è quella dove il governo intende entrare anche a gestire imprese delicate come Ilva, Alitalia, Autostrade, aziende che ai loro già cospicui problemi così aggiungeranno le inefficienze di cui sopra, con in più il prezzo pagato alla vecchia politica delle clientele. Una dichiarazione del presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, che a proposito della scuola dice: presto saranno disponibili le linee guida condivise governo regioni per la ripresa delle attività, ma occorre un piano di investimenti per il settore. È infatti in corso la conferenza delle regioni, poi si incontreranno con il governo. Da quel che è filtrato, le regioni avrebbero in mente delle proposte meno restrittive per la ripresa dell'anno scolastico, cioè per esempio mascherine obbligatorie soltanto all'ingresso e all'uscita, non durante le lezioni, anche sulla distanza di un metro tra i banchi dei ragazzi, un po' sull'esempio francese, che a quanto si apprende sta facendo la stessa cosa. Siccome non è possibile rispettarlo in tutte le scuole, si potrebbe derogare avvicinando un po' i ragazzi, ferma restando la distanza con l'insegnante. Ovviamente la reazione, 5 volte all'ora delle aule scolastiche, eccetera. Ne sapremo di più forse in serata. A proposito di scuola, vanno avanti gli esami di maturità, ma ci sono anche gli esami di terza media. Vi vogliamo raccontare una storia e lo facciamo con Ferdinando Bonessio, insegnante all'Istituto Poggiali Spizzichino di Roma. Buongiorno. Buongiorno credo a che tutti sia Roma. Gli ascoltatori. Credo che sia Roma l'istituto, giusto? Sì, sì, sì, è nel quartiere della Montagnola, a metà strada fra il centro e l'Eur, per ecco, capirci. Ecco, esatto. Allora, la storia è una storia così, diciamo, anche divertente, è una storia dell'Italia di oggi, dove si è cercato di, con la didattica a distanza, di tenere sì, i coinvolti. Posso dire, siccome mi riguarda personalmente, sì, che io la ritengo una storia eccezionalmente normale. Eccezionalmente normale, quello perché, che stavo in qualche modo dicendo. Realtà... Però mi faccia finire, Bonessio, perché sì, bisogna dire che cosa è accaduto. Lo dico io in due parole, poi gliela faccio raccontare questa storia. Praticamente durante l'esame di terza media, esame che è stato fatto in videoconferenza sostanzialmente, una sua alunna aveva un problema di collegamento. Evidentemente non riusciva per qualche motivo a connettersi. Allora lei a un certo punto ha mollato tutti, è andato a casa della ragazzina, gli ha dato il suo telefono e le ha consentito di portare a termine l'esame. E questo è un po', no? Che sì, è per stata... grandi linee corrisponde a questo. Diciamo che l'azione nella sua sostanza è un'azione che io ho realizzato 2 giorni fa nell'ultimo esame di terza media, con l'ultima classe che esaminavo di una carriera lunga 43 anni. Perché lei va però in pensione adesso. Io vado in pensione il 1 settembre, sì, però posso garantire a tutti coloro che ci ascoltano che è esattamente la stessa azione che avrei compiuto il primo giorno in cui sono entrato in servizio tanti anni fa. Quindi questo è un po' perché ho sempre pensato che insegnare sia qualche cosa che deve avere dei riferimenti. Il primo è quello di avere con gli alunni un rapporto affettivo emozionale che è ciò sì, che è stato tagliato dalla didattica a distanza. E lei tra l'altro è un insegnante di ginnastica, giusto? Sì, di educazione fisica, insomma, sì. Come si dice a Roma, visto che siamo su un network nazionale, maestro de zompi, che vuol dire proprio zompare. Ah, che bello, a Roma dicono così. A Roma si fa molta ironia, no? Quindi sì, poi sì, è autoironico questa definizione. Per il maestro De Zompi è più normale forse che per un insegnante italiano avere un rapporto così, diciamo, anche di amicizia con gli studenti. Io le stavo raccontando i miei riferimenti, un riferimento del mio mestiere da insegnante, perché è un mestiere insegnare. Sì. Il mestiere da insegnante è stata mia madre è andata in pensione con 40 anni di servizio, laureata in lettere antiche, insegnava storia, latino, italiano e greco, quindi i suoi alunni l'amavano, quindi insomma, una persona che insegna quelle materie in un liceo, essere amata, ricordata, io ho 62 anni, ancora ho degli alunni di mia madre con cui ancora sono in contatto sui social. Però, quindi lei ha avuto un insegnamento da questo punto di vista. Senta, ci racconta un po' la storia di questa ragazzina, sì, che immagino sia questa, un po', appunto, come dire... Dicevo, questa didattica a distanza, che sarebbe più giusto chiamarla formazione, sì, di emergenza, sì, avrebbe dovuto, che cosa, non guardare tanto alla valutazione degli alunni, cosa impossibile perché non è garantita le pari opportunità, nel senso che un docente doveva subito comprendere che dall'altra parte tu non sapevi se avevi un alunno che aveva gli strumenti, che aveva l'accesso a internet, che dentro casa aveva una situazione per cui non aveva fratelli maggiori che si dovessero collegare, o genitori che dovevano lavorare in smart working, o addirittura situazioni, come dire, disagiate economicamente, che non potevano permettersi l'accesso a internet. Quindi questo doveva essere. E stavamo svolgendo questi esami di terza media, sono esami organizzati esclusivamente online, ogni ragazzo ha grosso modo un quarto d'ora, 20 minuti per esporre la cosiddetta tesina elaborata, un po', sì, come dire, un'esposizione che riguarda un po' tutte le materie curricolari, e i docenti ascoltano e porgono eventualmente qualche semplice domanda. Sì. I ragazzi hanno preparato questa tesina in autonomia, alcuni supportati dalle famiglie, coloro che hanno famiglie in grado di supportarli, e altri, a differenza di ciò che accadeva gli anni passati, dove i docenti comunque seguivano, indirizzavano questo lavoro di preparazione per gli esami, totalmente in abbandono totale. Quindi è chiaro che l'approccio stesso dei docenti doveva essere diverso. Questa bambina era prenotata per le ore 12, ecco, non riusciva a collegarsi, ci messaggiava via internet, e noi capivamo che era in una situazione di stress, e si tratta di una era bambina preoccupata, anche noi, dici, cacchio, non riesco a collegarmi, qui mi, esatto, salta l'esame. Oltretutto una bambina extracomunitaria che è venuta, arrivata in Italia lo scorso anno, che per una serie di motivi abita piuttosto distante, a 20 km dalla sede della scuola, perché il padre lavorava vicino alla scuola, aveva preferito iscriverla presso il nostro istituto, sì, da sola a casa in quel momento con problemi di connessione. Noi decidiamo che, con una cosa molto semplice, decidiamo di posticipare la sua interrogazione, quindi arriviamo alle 16 del pomeriggio e questa bambina ancora non riesce a collegarsi. A quel punto, perché la disorganizzazione e l'improvvisazione su questa didattica a distanza è stata tanta, la ragazzina ci scrive che lei preferiva utilizzare un'altra piattaforma elettronica, sì, a scuola nostra in particolare ne abbiamo utilizzate molte. Alla fine è uscita una circolare del prese, diceva, per gli esami usate, insomma, alla Zoom. Fine lei è andato a casa della, sì, vi siete trovati al bar, credo. Un passaggio importante per cui, sì, io poi sono corso a casa di questa bambina, sì, sì, perché i colleghi non volevano farla passare sull'altra piattaforma, un problema burocratico, non erano autorizzati, quindi questo fatto di non comprendere il disagio, di non capire come un docente doveva soddisfare l'esigenza primaria dell'alunno di essere valutato, di essere messo in grado di sostenere le professor danni. Bonessio, la chiamo per così, anche se lei appunto ha finito, diciamo, con questa storia anche un po' la sua carriera, diciamo, scolastica. Io questo lo prenderei come eredità, no, anche del suo lavoro di insegnante, questo spirito, diciamo, di cercare di mettersi nei panni di immedesimarsi con le difficoltà dei ragazzi, soprattutto in questa fase in cui la didattica a distanza ha allontanato il contatto umano. Grazie a lei per essere stato con noi, per averci raccontato questa piccola storia dell'esame di terza media di questa ragazzina dell'Ecuador. 13:45, piccolo break, torniamo tra poco con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.